Buonasera a tutti e bentornati al podcast di Geek Cookies. Siamo alla puntata 6. Questo mese arriviamo un pochino tardi perché c'è una new entry nel podcast, anche se ancora non può parlare perché è la figlia di Mario. E abbiamo cercato di organizzare per far partecipare anche lui, ma a questo giro non ci siamo riusciti. Confidiamo nella crescita della bambina in maniera molto rapida nelle prossime 2 settimane, in modo che la prossima puntata Mario ci possa essere. Con me c'è Massimiliano. Salve, buonasera. E presentiamo l'ospite di questa sera, che è Alex, che è stato un aiuto tecnico per il nostro podcast e ci farà compagnia per questa puntata. Ciao, grazie mille di avermi invitato. Adesso, Alessandro, questa non te l'aspettavi, parlaci un po' di te. Ok, allora, cercherò di essere breve. Sono Alex, anche se appunto, Alessandro mi chiama soltanto la mia mamma e la mia nonna. Mi chiamo Alex Raccuglia e sono un regista di Milano, mi occupo di produzione video, però nella mia vita passata ero un ingegnere informatico. E per cui ogni tanto mi capita di rispolverare le mie conoscenze ormai vetuste, di fare dello sviluppo software, per delle applicazioni poco ortodosse, mettiamola così. Addirittura poco ortodosse, cioè. Beh, l'ultima cosa che ho fatto è stato l'anno scorso ho dovuto realizzare, cioè la società per cui lavoro, che si occupa prevalentemente di video e ha una società gemella che invece si occupa di web engineering, ha dovuto realizzare una serie di registrazioni audio da parte di 100 persone in Italia, 50 uomini e 50 donne, che dovevano appunto registrare una serie molto lunga di frasi in italiano, che poi sarebbero state. Tutte queste frasi sarebbero state poi prese da un gruppo di ricercatori giapponesi e le avrebbero analizzate in modo da creare il profilo medio per queste frasi, in modo da fare del riconoscimento vocale. Questo, vabbè, è abbastanza comune, nel senso è un riconoscimento vocale offline, cioè che non può accedere a delle API su internet, per cui doveva esserci una sorta di database che risiedeva su questo oggetto che faceva riconoscimento vocale, in modo che riconoscesse queste frasi pronunciate da uomini e da donne o da. Insomma, con diversi accenti. E il tool che ci hanno fornito questi ricercatori per la registrazione era molto particolare, è stato scritto in maniera molto veloce e funzionava molto bene per registrare 3-4 frasi perché era molto sensibile ai rumori di fondo e a delle cose. Per cui, se tu ti mettevi a registrare in un ambiente che non fosse perfettamente silenzioso e non rispettassi perfettamente il momento di inizio e il momento di fine della frase, ti rimandava indietro. E questo, se devi registrare 5-6 frasi, non fa niente, ci mettevi 5 minuti a registrare tutto, ma quando dovevi registrare centinaia di frasi, alla fine il processo era tale per cui finivi in 4-6 ore e 4-6 ore una persona c'è, dopo le prime ore e mezzo la persona sclera, ma sclera veramente. Per cui era abbastanza impensabile. In più non saremmo mai riusciti con tutto questo tempo, poco tempo a disposizione, a registrare le 100 persone nei tempi consentiti da questo software. Per cui ho fatto reverse engineering di questo software. E ho, mi sono, insomma, ho visto come funzionava e mi sono scritto una serie di insomma, una serie di applicativi, una serie di routine per poter far sì di registrare la voce in maniera molto più autonoma. Per cui invece di registrare una frase alla volta, cioè il computer diceva: ora devi registrare la frase X. Aspettavi un secondo, partivi, tu registravi, poi devi aspettare un altro secondo che lui finiva di registrare, poi analizzava il file e controllava che non ci fossero casini. Nel mio caso ti appariva la frase a schermo, tu la ricevi, anzi ne apparivano 5 di seguito, tu le dicevi lasciando una minima pausa di mezzo secondo, così proprio a sentimento, e il mio software analizzava questi cluster di parlato e li riattribuiva ai singoli file e poi li salvava. E questo ha consentito di risparmiare l'80% del tempo in registrazione, siamo riusciti a fare questa cosa. E in maniera piuttosto automatica, soprattutto perché avrei dovuto consegnare questo applicativo e farlo lanciare su un computer e farlo andare da un collaboratore, cioè non mi sarei mai potuto mettere io 2 mesi a registrare tutte queste persone qua, perché io ho una pazienza che tende allo zero e poi avrò altre cose da fare. Per cui ho fatto questo software di reverse engineering che salvava l'audio. Quindi sei tornato ai tuoi albori di ingegnere informatico. Sì, io sono un pessimo ingegnere, anche un pessimo informatico. Mi piace pensare che ogni tanto mi vengono delle idee su degli algoritmi o su delle cose interessanti, e poi mi rendo conto che non hanno nessun tipo di valenza economica, per cui mi invento delle cose che magari a me piacciono tanto, che però non mi fanno diventare ricco, e però va bene così. Cioè, l'ultima cosa che ho fatto, anzi la penultima che ho fatto, era un'applicazione che gira su iOS e su iPad, e praticamente è un'applicazione che traccia le dita sullo schermo dell'iPad, e manda i dati di tracciamento, te li manda via email, e te li manda in un formato già formattato per poter essere utilizzati nei programmi di animazione e di effetti speciali. Per cui molto spesso, quando tu fai delle riprese a un iPad, perché devi simulare un'applicazione, l'applicazione non c'è, e devi però far finta di muovere le cose, e tutti i movimenti devono essere comunque tracciabili all'interno dell'interfaccia. E questa mia applicazione, che si chiama TrackFinger, ti manda tutti i dati già pronti, cioè tu puoi importarli direttamente copiando e incollando questo file nel programma di compositing, e già hai tutte le cose già sincronizzate da posto fino a 10 dita. E infatti per gli effetti, per quelli che fanno effetti speciali, è stato, insomma, ho ricevuto dei grandi complimenti anche dai miei idoli, cioè gente che io sognavo anche solo di toccare, però comunque commercialmente è stata una cosa che serve appunto solo a chi fa effetti speciali, per cui non è che siamo tanti nel mondo. Beh, però ti sei trovato la tua nicchia. Sì, no, ma in realtà io sono molto contento di quello che ho fatto, e mi rendo conto che purtroppo ho delle grosse lacune di programmazione, di sviluppo, per cui magari le idee funzionano anche, però l'implementazione è molto macchinosa, molto farraginosa, e conosco il mio limite, però diciamo che con prodotti a basso prezzo oppure molto verticali questa cosa ci può stare. Sai, se tu devi fare un'applicazione che venga utilizzata da 20 milioni di persone, devi fare Instagram, devi fare la cosa più semplice, più accessibile, più fluida possibile. Se tu devi fare uno strumento che va, insomma, che viene utilizzato da gente che lavora per poi produrre contenuti, neanche contenuti, ma uno strumento per produrre contenuti, allora il professionista, diciamo che è un po' meno naif, diciamo che può anche pensare di accendere leggermente un po' di più, insomma, e capire un po' di più come funziona. Sì, però mi rendo conto che dal punto di vista del marketing è faticosissimo, e dal mio punto di vista, cioè, ogni volta che pensavo al marketing, cioè essenzialmente fare conoscere la mia applicazione al mondo, cioè finivo sudato, stravolto e distrutto, molto di più che nello sviluppo vero e proprio. Ma sai cosa? Riuscire a piacere all'utente medio è difficilissimo. Io penso che in un qualunque software la parte di sviluppo di interfaccia grafica, perché sia facile, è la parte più difficile di tutte. Sono d'accordo. È molto più difficile fare un'interfaccia semplice e intuitiva che fare un pezzo di codice che magari prende del video, lo analizza, toglie questo, toglie quell'altro, mette una cosa in maniera perfetta, però poi devi fare in modo che lo faccia con due swipe, e la cosa diventa un po' più complessa per i due swipe. Sono assolutamente d'accordo, e devo dire che con questi lavori che ho fatto, soprattutto con l'ultimo, perché dopo magari ve ne racconto, dovrebbe essere in scaletta, la parte di andare a togliere è stata la cosa più difficile, perché mi rendo conto che magari un professionista che lavora con l'audio, oggi parliamo di audio, credo, no, non dovevo dirlo, scusate. No. Un professionista vuole anche avere tutti i controlli sullo schermo, magari un professionista anche degli strumenti professionali. Se tu pensi di realizzare, se io penso di realizzare un prodotto che possa essere utilizzato, non dico da mia nonna, ma da qualcuno che non ha voglia di star lì ad applicarsi, allora capire anche cosa andare a togliere è la parte più complicata, e soprattutto capire come fare anche in modo di dargli la possibilità all'utente di poter interagire, però dare anche la possibilità di quei valori di default, i valori base, funzioni bene, funzioni abbastanza bene o sufficientemente bene. Nel senso, se non hai voglia di sbatterti, io ti faccio la bacchetta magica, un po' come la bacchetta magica di iPhoto. A me non, cioè, personalmente io me ne sbatto anche, anzi sinceramente non lo uso neanche ai foto, però molta gente usa la bacchetta magica, migliora un pochettino, fa un po' di cose, ah che bello, ha funzionato, e poi cosa c'è dietro la bacchetta magica, capire come hanno istruito questa bacchetta magica per rispondere alle infinite possibilità che una persona possa scattare, quello è grande ingegneria. Giusto. Io penso che anche Massimiliano, da questo punto di vista, abbia un po' di esperienza, perché anche lui sviluppa. Sì, io ce l'ho dal lato app più che applicativi, quelli desktop, ma all'incirca siamo lì, l'interfaccia grafica riporta via un tempo esponenziale e sì, non riesci poi mai a, poi a farla bene, anche perché tu hai il tuo modo di pensare, tu l'hai partorita, quindi per te è chiara come chiara cristallina proprio, e chi invece la utilizza pensa che faccia tutt'altro, generalmente poi non leggono neanche le descrizioni sullo store, quindi arriva dei commenti di persone che pensava che facesse il caffè, invece è tutt'altra applicazione. E sì, comunque sia, fare un'interfaccia semplice e funzionale è molto molto difficile, generalmente più che del codice, perché l'algoritmo è quello e ci metti a implementarlo in maniera proporzionale alla complessità. Invece l'interfaccia grafica ha sempre un milione e mezzo di complicazioni. Oltre al fatto che poi ti dicono no, ma il telefono sarà sempre di queste dimensioni, e poi cambia, diventa più alto, diventa più largo e diventi matto tu. No, guarda, allora, per Android tutto è partito con... allora, Android è fatto per poter scalare, diciamo, bene. Il meccanismo che hanno messo sotto è fatto molto bene. Il problema è che poi dopo sono saltati fuori miliardi e mezzi di grandezze, di schermi, risoluzioni, di tutto quello che ti poteva venire in mente. Quindi devi pensare che puoi specificare dentro al programma Android moltissimi aspetti. Quindi ti ritrovi a fare layout, immagini, grafiche per risoluzioni varie, diagonali, PPI diversi. È da diventarci matti per farlo bene, altrimenti poi il risultato può essere vario e inaspettato a volte, spesso. Bene, bene. Dopo questa intro che ci ha preso una bella fetta, ed è stata interessante, io direi che possiamo, uno, dire il titolo l'argomento dopo un quarto della puntata d'ora di oggi, che dopo 20 minuti di parole ancora non abbiamo detto. E poi partiamo con i nostri con le informazioni prese dalla rete, perché ci sono due chicche molto interessanti. Oggi, dopo le introduzioni varie, parleremo di podcast. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo cominciato da zero, abbiamo fatto un investimento pari a zero e riusciamo a tirar fuori un podcast che a noi soddisfa. Noi vogliamo fare un podcast di buoni contenuti e di buona qualità audio. Io patisco tantissimo il fatto che alcuni podcast non riesca ad ascoltarli perché in macchina non si sente la mazza. È veramente difficile. Io il podcast lo ascolto in macchina mentre vado in ufficio e alcuni sono terribili. Quindi l'obiettivo nostro era mettere dei buoni contenuti di una buona qualità audio senza dover spendere una follia. Quindi oggi vi racconteremo la prima parte, che è quella dell'audio. La puntata prossima vi racconteremo la parte di pubblicazione, in modo che se qualcuno degli ascoltatori aveva già in mente di fare qualche cosa, si può rendere conto che non è difficile fare una produzione di una qualità tutto sommato buona. Max, ho dimenticato qualche cosa? No, direi che... che ci siamo. Scusami, ero un attimo distratto perché mi è arrivata la news che aspettavamo tanto, quindi poi la c'è. Ah, perfetto, benissimo. Allora, mi hai preso giusto in tempo. Seguivo con metà cervello e con l'altra stavo leggendo. Comunque sia, sì, penso che è giustissimo l'introduzione che hai detto, è completa. Molto bene. Allora, prima di parlare di audio, parliamo di due oggettini, che uno è comparso su Kickstarter 2-3 giorni fa, ma ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, e il secondo è un oggetto un po' particolare che ho sentito in un altro podcast e che è interessante davvero. Il primo deriva da Michelangelo. Sapete, è venuto in trasmissione qualche puntata fa, ci ha raccontato sia di Volumio che di questa scheda, che è un mix tra il RAS, un potente Raspberry Pi e un Arduino 2, la Udo, hanno presentato la Udo Neo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vero Max? Sì, esattamente. Perfetto. E è stata lanciata su Kickstarter 3 giorni fa e ha fatto il botto, nel senso che l'hanno finanziata in 80 minuti e in 24 ore ha fatto il 500% di quello che si aspettavano. Io ho conosciuto di persona Michelangelo, che è venuto all'Hackathon di Torino 2 settimane fa, e ho avuto l'occasione di prendere in mano una di queste schede di pre-produzione. È fantastica perché è grande come un Arduino e dentro ha l'Arduino, ha un ARM, ha un giga di RAM e ha il Wi-Fi, ha il Bluetooth 4, il low power, ha una scheda Ethernet e ha un sensore di movimento a 9 assi, ha il magnetometro, ha tutti gli accelerometri, è spettacolare. Io suppongo che adesso Massimiliano, con le informazioni che gli hanno appena dato, può essere molto più preciso di me. Sì, allora, c'è da dire che intanto sono uscite 2 versioni di questa Neo, una Basic e una versione un po' più estesa, che come differenza hanno la mancanza della porta Wi-Fi e della porta Ethernet e della memoria. Una ce l'ha a 512 MB e l'altra a 1 giga di memoria. È importante, in quella base manca tutta la parte di sensore di movimento. Sì, esattamente, i sensori ad assi, magnetometro e quant'altro. Detto questo, ok, tu hai ricordato che hanno lanciato la campagna Kickstarter, che penso sia ancora aperta, quindi chi vuole può andare sulla campagna e prendersi qualcuno di quei perk per ottenere la scheda. E arriviamo poi a 2 piccole notizie che mi ha mandato adesso Michelangelo. La prima mi diceva lui che è appena uscita, quindi proprio è fresca di adesso, e cioè che hanno lanciato la Neo. Lui dice: per essere ancora più leggera per l'utilizzo con i droni, nella sua versione Basic, quindi quella 512 MB, perde la porta HDMI. Quindi hanno fatto una, diciamo, sottoversione della versione Basic che è ancora più snella. Chissà se forse è ancora più piccola, comunque sia, ha meno sensoristica e perde per determinate applicazioni una porta che è assolutamente inutile. E dice: al suo posto ci saranno i sensori di movimento. Quindi una formulazione ancora diversa, più rivolta all'Internet of Things o ai droni, modellistica o quel che si vuole fare. Sono curioso di sapere come faranno la prima configurazione, perché tutte queste schede, quando partono, hanno bisogno di interfacciarsi a livello monitor per la prima configurazione. Secondo me lo faranno con un sistema operativo che fa da hotspot, quindi tu ti attacchi sulla Wi-Fi, fai le configurazioni e poi lui si attacca sulla Wi-Fi tua e diventa raggiungibile. Mi sa che è l'unica soluzione. Sì, guarda, le metodologie sono varie, tipo, ecco, quella avendo il Bluetooth può fare come tanti oggetti dell'Internet of Things che hanno attiva il Bluetooth e volendo un'app. Oppure, che era una cosa che mi sembra tra di noi aveva fatto circolare Mario, ci sono dei sistemi, uno di questi è Resin.io, che ti danno una ROM da mettere sulle schede. Resin.io c'è per, mi sembra, Raspberry e anche Udo, la quale ti dà un sistema operativo collegato in rete sul quale ci fai arrivare le tue applicazioni messe come applicazioni Docker. Quindi ci potrebbe essere anche la possibilità, volendo, di avere dei sistemi operativi che poi gestisci in remoto in un qualche modo, anche se non credo che sia questo il caso. Molto probabilmente avranno trovato una modalità di configurazione diversa. Ma io suppongo facciano la cosa con lo spot, perché alla fine è la stessa cosa che fa l'Arduino Yun. L'Arduino Yun ha un Linux dentro la scheda e non ha uscita video. Di conseguenza l'unico modo è che tu ti attacchi lei via web e fai le configurazioni su una pagina preinfinita. Sono curioso di sapere come lo sistemeranno. Vabbè. Ho parlato con Michelangelo l'altra volta e gli ho detto che secondo me questa scheda è l'evoluzione vera, cioè non hanno fatto come hanno fatto tutti. Tu guarda, è uscita la versione 2 e quindi è più potente della versione 1, perché ormai è uscito il Raspberry e tutti quanti giocano a fare qualcosa di più potente del Raspberry. Loro hanno fatto, secondo me, l'evoluzione, cioè hanno reso questa scheda indipendente quasi dalla sensoristica, cioè tu puoi realizzare un oggetto che si muove solo con questa scheda. Secondo me è un passo interessantissimo dal punto di vista dell'evoluzione di queste schedine qua, perché poi a un certo punto il limite è che le fai molto potenti ma fanno sempre le stesse cose. Mi piace, sono curioso quando uscirà di averne una. Penso sia addirittura la prima che ha wifi, bluetooth e sensoristica tutti insieme in un componente così, così piccolo in termini di dimensioni e anche di prezzo. Assolutamente, e soprattutto è progettata in Italia ed è realizzata in Italia, non è neanche prodotta all'estero, la fanno a Arezzo. Quindi, voglio dire, comprate. Sì, sì, sì, finanziate la campagna di Kickstarter, o se non potete ora, prendetela quando uscirà, mi pare a settembre. Non ricordo, questa cosa non l'ho vista. Sì, sì, su Kickstarter c'è segnato a settembre. Ovviamente gli early bird della scheda più bella sono volati via tipo in 20 minuti. Sì, sì, esatto. Poi l'altra informazione che mi passa come non ufficiale, che non sa ancora nessuno, è che hanno in lavorazione un DAC. Quindi un DAC per l'audio appositamente studiato per la Yudun Neo, quindi oltre a tutta la sensoristica anche l'audio. Audio di qualità. Io esatto. Questo oggetto me lo vedo assolutamente in macchina. Io ho come la sensazione che ci sarà tra 5 minuti anche una versione di volume. Non so te come la pensi, Francesco. Ne sono quasi quasi certo. Sento... Tra l'altro sono riuscito a farmi fare dal babbo la scatola. Adesso ho una confezione di legno bello spesso con le casse col volume dentro. È spettacolare. Guarda, Michelangelo ha risollevato tutta la mia voglia di mettermi a paccioccare su questi dispositivi, sia col software che con l'hardware. Ma ci credi che ancora io non ce l'ho messo volume sul Raspberry? Non ho idea. Ma perché tu sei pessimo? No, ma perché non va bene. Io siccome che lo sto aiutando per un altro progetto, lui mi fa fai questo, e praticamente non ho mai tempo di fare nulla, e quindi... Niente, c'ho un'altra cosa derivata da volume, ma non è assolutamente quello. Quindi non so, mi piacerebbe metterci anche perché so che c'ha Spotify sopra, quindi sarebbe bello. Sì, ha un po' di limiti, nel senso che volume è fatto per l'alta qualità. Se tu metti dei FLAC, ci ho provato, è spettacolare. Ovviamente devi mettere un DAC serio. E con Spotify... ti fa ascoltare le playlist, per esempio se metti il segui un artista, gli artisti non li vedi, se ti salvi un album, l'album non lo vedi, ti devi fare una playlist, ma mi ha detto Michelangelo che tutte le API per Spotify ci sono, ma sono talmente tante che hanno dovuto fare una scelta. Comunque mi ha parlato bene della prossima versione. Vabbè. Speriamo che esca in fretta. Abbiamo fatto addormentare Alex? No, io vi ascolto. Sono molto curioso di questa cosa, anche se non avendo un Raspberry Pi, non volumio mi interessa, ma così per pure curiosità. Ah, secondo me un Raspberry Pi, ovviamente se hai il tempo, perché è piccola, consuma poco, ma consuma un sacco di tempo. Ce l'hai in mano, cominci a pensare che cosa puoi fare con questa schedina e ti accorgi che puoi farci il mondo. Ma dal sistema multimediale per la televisione, io ci ho fatto la videosorveglianza, ci puoi fare il server di VPN per accedere alla tua rete da internet, è veramente versatilissimo. E poi secondo me con un DAC sopra, tu che lavori con l'audio, qualche cosa di interessante ce lo puoi tirare fuori, sai? Sì, sono abbastanza d'accordo, anche se devo dire che questo per mia esperienza, anni fa ero un grande audiofilo, cioè, nel senso, ho lavorato al mio impianto multicanale, al Sinto Ampli, tutte queste cose. Poi quando ho iniziato a lavorare a fare spot televisivi e a dover confrontarmi col fatto che io guardavo i video che montavo su monitor di riferimento, poi li andavo a testare e no, voi non avete idea di come la gente collega il televisore al decoder digitale terrestre, per cui magari in televisori di 56 pollici collegati con la SCART, per farti capire. Cioè, Sì, beh, certo. sono arrivato a un livello di depressione tale per cui a un certo punto ho detto: ma inseguire qualcosa quando il mondo era una sorta di valanga di mediocrità qualitativa. Allora diciamo che ho avuto un grande rifiuto. Infatti, devo dire che adesso ascolto quasi tutta la musica che ascolto, l'ascolto su Spotify e non da CD, per dirvi. Anche CD che ho, trovo più comodo. Ho sbarattato la comodità con la qualità. Cioè, viceversa, scusate. Ho preferito la comodità alla qualità, e questa è una cosa che fanno in tanti. Per cui, sì, in realtà l'idea di averlo come media server, e poterlo utilizzare collegato al videoproiettore che ho in casa, mi piace l'idea. Immagino che ci giri VLC, giusto? Guarda, ci gira VLC, ma ci gira soprattutto Kodi. Kodi è una distribuzione che è pensata per il media. Tu lo attacchi con l'HDMI e lo attacchi alla tua rete. E Kodi va a cercarsi tutte le fonti possibili di roba multimediale. Se hai un server DLNA, qualunque cosa, e il Raspberry Pi ha la scheda video che tiene il Full HD in maniera perfetta, cioè tu guardi in streaming film Full HD senza Sto uno guardando il scatto. sito di Kodi in questo momento, che è kod.tv, giusto? No, lo dicevo per i nostri teleascoltatori, e devo dire che sto per tirare fuori i soldi. Anzi, in realtà devo andarlo a rubare a un mio amico che c'ha il Raspberry Pi. Prestamelo per una settimana, così ci Meglio smazzo il sopra un po' di 2, roba. comunque Ok, sia. Vabbè, sì, certo, perfetto. sì. Tra l'altro, se hai un televisore con l'HDMI di ultima generazione, che tra l'altro non è ultima, il mio ha 3 anni, il televisore funziona bene. Sull'HDMI lui riporta il segnale del telecomando. Ora non mi ricordo com'è che si chiama questo protocollo. Sì, ho capito. No, E il mio quindi tu purtroppo no. con il telecomando puoi comandare direttamente il Raspberry Pi. Ok, mi hai È dato un fighissimo il fatto motivo. che abbia l'in. Scusate, Scusa? ci siamo sovrapposti. Dico, mi hai dato un motivo per cambiare la televisione. Lo stavo cercando, ma trovo resistenze in Apposta. casa. Mi hai dato un motivo, grazie. Che televisione compreresti? Adesso facciamo una digressione io, perché su Che quello. televisione? Non lo so. Io ho visto che adesso le 4K si trova ad un prezzo accettabile. Sei sicuro? Ma io ho visto dei Io continuo a dire. volantini con 700 euro, mi sembra si portano via, però no, non mi sono messo a guardare la qualità poi effettiva della Allora, televisione. il problema è che non solo non ci sono contenuti, ma non ci saranno ancora per un sacco Ah di sì, tempo quella, i come fu contenuti. per Full HD a suo tempo. Esatto, io continuo a dire che un buon Full HD, cioè un Full HD serio, spacca il culo a un mediocre 4K. Siccome di 4K c'è in giro soltanto mediocrità, io punto a dire un bel Full HD, magari se fosse un OLED, per dirvi, cioè non dico adesso, fra un anno o due, quando i prezzi possono diventare un po' più gestibili, è veramente qualcosa. Il 4K lo penserei più per l'utilizzo informatico. Quindi Beh, secondo il te 4. i 4K che girano adesso, di qualsiasi marca, non sono dei validi televisori da acquistare in Ma questo no, momento? possono anche funzionare. Secondo me non hanno la qualità di un OLED. Vabbè, però quello ce l'abbiamo. Diciamo che sono sovradimensionati, un po' come dire prendo una Ferrari per andare a fare la spesa, sì, ma magari vai a fare la spesa con una Panda e poi ti compri molto più cosa al supermercato. Io ho questa mia visione, però insomma no, magari dipende anche da quanto lo vuoi grande. Sì, no, più che altro lo pensavo in visione futura. Ecco, io vedo il televisore che ho in casa io che ha più di 7 anni e finché non decido di tirargli contro qualcosa, penso rimarrà lì e farà il suo lavoro tranquillo. Buono, tientelo, è una cosa buona. È un Sony. Quindi pensavo, ho detto, vabbè, magari uno che si mette adesso a dover cambiare il televisore, magari potrebbe in prospettiva futura. Allora, ci sono due possibilità. O la trasmissione per trasmettere un segnale in 4K, che comunque è compresso in H265, immagino che i vostri teleascoltatori sappiano di cosa stiamo parlando. Ma se non lo sanno, sono abbastanza svegli da aprire Google, okay, e cercare H265. H.265. Allora, ci sono solo due modi per trasmettere un segnale del genere. Allora, l'etere, scordatevelo, cioè o la trasmissione satellitare o lo streaming. Per uno streaming in 4K deve averci la fibra ottica, punto. Ma o comunque almeno un 30 megabit e vederlo male. Sky ha fatto l'accordo con Telecom e Sky è solo HD, ma solo se hai i 20 mega, eh? Sì, ma perché sa benissimo che Telecom col cavolo che i 20 mega li regge. Ma guarda, io ho la fibra, cioè ho il fiber to the cabinet. Ho 30 mega nominali e ne ho 21 garantiti. Faccio speed test durante l'arco della giornata, non scendo mai sotto i 25. Tu sai che ti sto odiando perché dove abito io, cioè fiber to dove no, fiber to the no. È il problema della nostra rete. Loro hanno spinto molto sulle grandi città e hanno abbandonato il resto. Tieni conto che dove lavoro io, che poi è a 20 km dalla città, l'azienda ha dovuto pagarsi lo scavo della fibra ottica per portarsela fino al magazzino, perché le linee ADSL facevano veramente pietà. È un posto in mezzo ai campi, il doppino era vecchio e era marcio e le ADSL non andavano. Si sono pagati lo scavo della fibra ottica dalla centrale fino all'azienda e ora ci sono 100 mega. Va bene. E purtroppo fuori dalle grandi città hanno... No, non hanno neanche spinto, cioè hanno fatto in modo che le centrali decadessero. Io vedo a Torino c'è una parte di collina che tra l'altro è una parte molto in, le centrali sono vecchie, ma io vedo delle ADSL che sono nominali di 7 mega, vanno a 400k, una roba allucinante. Mamma mia. Mamma mia, che roba brutta. Bruttissima. Vabbè, insomma, diciamo, tornando al discorso di prima, per quanto concerne almeno il nostro bel paese, dimentichiamoci l'idea di avere Netflix in 4K, per farvi capire. Anzi, forse dimentichiamoci anche di avere Netflix. per cui l'unica alternativa è il satellite e posso capire magari per certe cose offline, magari un film masterizzato in 4K, che allora Sky può anche pensare di dedicare un satellite con una cosa del genere, ma considera che tutta la filiera di produzione e post produzione Sky ce l'ha in HD e col cavolo che si mette a spendere svariate centinaia di milioni di euro per aggiornare le telecamere, le connessioni, i mixer, lo storage. Prima di vedere qualcosa di veramente in 4K, considerate che Rai 1 è passata al Full HD, cos'è stato, per il telegiornale qualche mese fa, capite che... Beh, Rai 4K... ha 6 canali ma ne ha uno in HD. Esatto, sì. No, dico però internamente lo producono in HD, da quanto ho capito. Cioè almeno si salvano i file in HD, che poi lo mandino sulla SCART, che secondo me proprio è... Credo che me la sognerò di notte quando starò per morire. La SCART! Sai che non so se cosone. È peggio la SCART o l'RCA giallo. Forse è l'RCA giallo. Sni, la SCART, perché aveva l'idea di base della SCART era facciamo un coso che trasmette tutti. In realtà poi questo ha fatto sì che molti segnali si disturbassero fra di loro. E poi la SCART è più scomoda, è più suscettibile di usura meccanica. Ma perché stiamo parlando di SCART in questo podcast, vi prego? Beh, abbiamo cominciato a parlare di media center, poi di televisioni. Comunque Max, vai a... a guardarti un televisore OLED. Secondo me ci ripensi al 4K. Sono d'accordissimo. Vai in un centro commerciale dove tu possa vedere affiancati un LCD e un OLED. Vedi che cambi subito idea. L'OLED è un altro mondo. Ma io sono Io pericoloso, devo dire la ho verità. una, come dire, un magnetismo verso la roba elettronica che è pericoloso, quindi bene, forse che desista da ciò. Io devo dire la verità che secondo me è LED, l'LCD, scusatemi, chiedo venia, LED, la retroilluminazione, è l'LCD che non ha mai funzionato come display, perché noi siamo passati dal tubo catodico, che secondo me era una cosa stratosferica, ovviamente con tutte le limitazioni dal fatto che non riusciva a raggiungere dimensioni e risoluzioni più elevate, all'LCD, e adesso con l'OLED stiamo tornando indietro a un tubo catodico di nuova generazione, come per quanto concerne la risposta cromatica, la luminosità, la fedeltà ai colori, eccetera, eccetera, eccetera, la risposta. Per quanto concerne il passaggio tra il pixel quando è acceso e quando è spento e il contrasto, Beh, cioè il quando questa cosa, contrasto. quando c'è da mostrare il nero, il valore RGB 000, quella roba è spenta. Questa è la cosa bella. Infatti il nero è nero, non è quel grigino. Sì, infatti. Esatto. Comunque, Max, falla questa prova. Vai in un centro commerciale, lascia a casa portafogli, carta di credito, tutto e guarda l'OLED. E poi ci dici qualche vado a cosa. piedi, neanche la macchina perché potrei rivendermela. Esatto. Comunque notavo che è molto Esatto. bella questa puntata sull'audio. Sì, stavo Visto? pensando la stessa cosa. Vabbè, potremmo chiamarla multimedia Dai. perché ancora dopo 45 minuti di audio ancora non abbiamo parlato. Passiamo alla seconda piccola news, poi parliamo veramente di audio, dai. Ho sentito in un podcast, chiamiamolo della concorrenza, su Radio 24, una radio di bassissimo livello, direi, Senti, con e hanno tutto parlato l'affetto, di... ma no, non è concorrenza quella, dai. Io pensavo dicesse di Geek Reflection. Ho detto, bah. No, parlo di radio commerciale, c'è la trasmissione 2024 che ascolto sempre con piacere, e hanno parlato di Click and Pizza, non so se lo conosci Max, No. è una società italiana che sta producendo, e ancora qui in Italia non c'è, però il pensiero è molto carino, un bottone magnetico, tu lo attacchi al frigo, ti registri il tuo menu standard. Tipo, mangiamo tre pizze fatte così, schiacci il bottone, parte l'ordine e ti portano la pizza. È come quello di Amazon all'incirca. Sì, ma sul cibo. Ah, perfetto. Vabbè, quello di E Amazon è poi. programmabile, quindi quando il giorno in cui faranno anche le pizze, te pigi e ti arriva la pizza, insomma. E lì puoi fare anche poi le variazioni sul menu perché ha un display dentro. È come forma, ve lo dico poi, è una specie di teglia della pizza con una pizza disegnata sopra e in mezzo c'è un display tondo in LCD. Bello, figo. È una cosa molto carina, secondo me, ne parliamo in pretrasmissione. Con Alex, può essere un buon punto di partenza per il vero internet delle cose da mangiare. È italiano questa cosa? Sì. È prodotto da una società che si chiama La Comanda. Una figata, questo lo ordino subito. E il fatto è che loro lo venderanno ai. Per ora hanno fatto un accordo con Pizza Hut in Canada. No. Lo vendono a Pizza Hut e Pizza Hut poi lo darà ai clienti, non si sa ancora bene se facendoli lo pagare o in che altro modo. Vabbè, però è simpatica come idea. Sì, secondo me è un ottimo spunto. Infatti stavo già pensando come farlo con il Raspberry e mandare l'ordine direttamente sul sito di Just Eat. Facciamo uno studio di reverse engineering su come funzionano le chiamate e fai tutto quanto con un bottoncino. Ora ci arrestano tutti. Va bene, allora direi che possiamo dopo un po' di tempo di chiacchiere e divagazioni, ma noi ormai siamo così, se non l'avessimo fatto non sarebbe stato interessante. Possiamo parlare del podcast, di come noi facciamo il podcast e soprattutto alla fine perché abbiamo invitato Alex, che ancora non lo abbiamo detto. Lo diciamo subito e poi entriamo un po' più nel profondo con quello che lui fa. Noi ci siamo serviti di un suo software che ci semplifica da morire il montaggio audio. Ora non c'è Mario, che è la persona che tipicamente monta, ma lui, da quando abbiamo questo software, è felicissimo. Devo dire che credo che sia il mio cliente più, insomma, più positivo, quello che mi ha dato più feedback, e tra l'altro che mi ha anche spinto a fare una versione successiva del software. Infatti faccio capire, non ho avuto così tanti clienti e ormai praticamente posso dire che li conosco di persona. È peccato che non ci sia Mario, mannaggia. Allora, facciamo così, partiamo un attimo dalle basi, basi tecniche, nel senso, se qualcuno vuole registrare un podcast deve avere una idea, deve pensare a qualche cosa che vuole dire. E noi tre ci siamo trovati perché siamo tre nerd e volevamo parlare di cose nerd un po' più profonde di quello che c'è in giro, e abbiamo cominciato a pensare, ma com'è che lo registriamo questo podcast? Innanzitutto bisogna partire dal computer. Il podcast normalmente si registra con il computer. Qualunque PC, Mac, Linux funziona bene, e su qualunque PC ci sono i software gratuiti per fare questo lavoro. Poi magari Alessandro e Alex, scusami. Vai tranquillo, chiamami pure come vuoi. Cioè, ci darà due dritte per qualche cosa di un po' più professionale. Noi attualmente siamo tre macchisti e quindi abbiamo tutti e tre il Mac e registriamo con GarageBand, che è di serie con il Mac, è gratuito e funzionicchia abbastanza. Volendo si può fare anche con tipo, Massimiliano aiutami tu, il software gratuito, l'altro che mi sfugge. Bello, siamo in due. Audacity. Bravissimo, grazie. mi sfuggiva il nome. E lui è disponibile su qualunque piattaforma, c'è per Mac, c'è per Windows e c'è per Linux. Direi che sì, fanno... perché è un prodotto open source e anche i filtri che utilizza sono open source, per cui è ben mantenuto dalla community. E direi che funziona anche abbastanza bene. Prima o poi faremo anche la prova di farlo senza GarageBand, ma con Audacity, solo che volevamo essere un attimo più stabili. Non sembra, ma 6 puntate non sono tantissime. Quindi per la parte software noi usiamo questo. Tu Alex? Allora, c'è stato un periodo in cui ho usato GarageBand anch'io, più che altro perché non avevo voglia di sbattermi e imparare cose nuove. GarageBand c'era, ci avevo fatto delle registrazioni multitraccia quando suonavo, per cui mi funzionava. GarageBand ha i suoi limiti, è un registratore multitraccia pensato per registrare canzoni, per cui su quelle funziona molto bene. Per registrare la voce è un po' più farraginoso, diciamo, anche perché tende comunque a registrare in multitracce, non ti permette di lavorare su un file singolo ma su tante tracce contemporaneamente. E in più nelle prime versioni c'era registro un podcast, era una dei template già pronti. Adesso questo è già più nascosto, è già più complicato da arrivarci. La seconda soluzione che ho trovato è stata Audacity, appunto, perché è un progetto open source molto efficiente, molto veloce. Secondo me ha alcune idiosincrasie che non mi fanno impazzire, perché più che altro ogni volta che si stoppa la registrazione e la si fa ripartire, lui crea un'altra traccia e lui genera di default un progetto multitraccia, e anzi ha solo quello, ed è abbastanza complicato, perché se uno sta registrando un podcast magari iniziando da solo, perché diciamo che questa è la prima versione, o magari si trova lui in una stanza in compagnia di un amico, di un'amica, e o lei, insomma, con tutte le combinazioni, diciamo, si stanno tutti nello stesso posto, non ha senso creare nuove tracce, crea senso di continuare. Io adesso sono passato ad Audition, adesso da 2 anni, 3 anni, che è di Adobe ed è distribuito, non credo che sia distribuibile singolarmente, si può acquistare insieme alla Creative Cloud, che è quella che appunto si compra, noleggia mensilmente. Mi trovo molto bene perché dal punto di vista della registrazione credo che sia il migliore, il più veloce, il più efficiente, ti permette di vedere la forma d'onda, eccetera, eccetera. Ha un ottimo riduttore del rumore. Credo che l'unico punto debole di Audition sia il filtro di compressione, dove per compressione è la compressione dell'audio, non la compressione del file, che trovo essere... no, sia il compressore che il noise gate, insomma, tutti i filtri che vanno a lavorare sulla dinamica, secondo me sono fatti male, hanno una pessima interfaccia e diciamo che non uso quasi mai per questo. Se dovessi rimanere nell'alveo delle soluzioni alla portata di chiunque, registrerei su Audition o su Audacity e utilizzerei i filtri di Audacity per fare questa cosa. Ah, comunque rimarresti sui filtri di Audacity? Sì, perché allora... Quando ho iniziato a sviluppare i programmi di editing audio, diciamo che sono nati all'interno per poter essere utilizzati negli studi di registrazione, e tutti i filtri dell'audio, tranne uno di cui parleremo dopo, sono stati pensati per emulare il più possibile i filtri analogici. C'erano i tecnici del suono degli studi di registrazione che sapevano dove mettere le mani, e diciamo che quando hanno fatto la versione digitale dovevano ricreare qualcosa che avesse lo stesso look, lo stesso impatto. E per quanto concerne appunto i filtri, come potrebbe essere il noise gate o il compressore o il compressore limiter oppure l'expander, i parametri tra l'altro che sono pochissimi, sono l'attacco, il gain, il ratio per il compressore, il release, tutte queste cose hanno molto senso se sono visualizzati in un certo modo oppure proprio con la voce, ratio, eccetera, eccetera. E infatti Audacity ha tutti queste caselline in cui mettere i numeri, se non proprio delle manopole, sono proprio i numerini dei field, che funzionano esattamente come uno si aspetta che funzioni. Invece in Audition Adobe ha fatto uno sforzo enorme per poter creare un unico filtro che avesse un'unica interfaccia che andasse bene per tutto, però così facendo secondo me si è perso grande immediatezza. Infatti non sono il solo, molte persone che lavorano nel suono odiano questa parte di Audition, infatti si rivolgono a filtri esterni o anche programmi esterni direttamente, come potrebbero essere Pro Tools, Logic e altri di fascia alta, per dire. Ho capito. Sarebbe da provare. Quant'è che costa l'abbonamento solo per Audition, se c'è? Sai che non so quanto costa per un singolo programma. Vediamo adobe.com. Perché tanto... la suite non costa poco, tutta la... No, devo, non mi ricordo se c'è un piano particolare per prenderne uno solo. Voi date tutta chiacchierata, io ti faccio la ricerca. Okay. In effetti ci siamo dimenticati di un pezzo. Prima del software ci va il sistema che traduce la voce in digitale, comunemente chiamato microfono. Noi abbiamo come impianti un po' di varietà. Sì. Si parte dal base, che è il microfono del Mac. Esattamente. Che è quello che usa Massimiliano e si sente, dai. Funzionicchia, sì, la qualità non è proprio eccelsa. Però c'è da dire che comunque sia, alla fine poteva andare peggio. Mi immaginavo una qualità dell'audio molto peggiore, invece c'è da dire, via. Ovviamente la vostra qualità è a livelli spaziali al confronto, però dai... Beh, bisogna mettere che tu non hai speso e noi abbiamo speso. La differenza purtroppo è in quello, cioè se puoi spendere di più mediamente hai un oggetto di qualità maggiore. Io sono stato fortunato perché il microfono non è mio. Nel senso che Valentina, la mia fidanzata, oltre a cucinare molto, molto bene, a scrivere molto bene sul suo blog, registra anche le ricette video, ha un canale YouTube suo, e lei registrava con il microfono del Mac e non le piaceva, l'audio era tristissima per questo audio, e allora ho preso un po' di informazioni, mi è stato consigliato il Rode Podcaster, che è un microfono di tutto rispetto, pensavo fosse un pochino più piccolo, si attacca alla USB, fa tutto quanto lui, ha anche l'uscita in temporale delle cuffie, quindi ha tempo di ritardo nullo è fantastico, solo che costa, mi pare, 150 euro, una cosa simile, senza la staffa. Quindi la staffa va poi presa a parte. Però diciamo è È un un microfono. semiprofessionale quasi. Sì. E tieni conto che la società che lo produce, la Rode, mi pare sia australiana, lo fa apposta per fare podcast, è per quello che lo chiama Rode Podcaster. Mario, se non erro, ne usa un altro a condensatore, sempre lui USB. E anche Mario direi che ha una qualità buona dell'audio, quindi anche senza spendere tutti questi soldi si può ottenere una qualità buona. Ora, se gli ascoltatori cominciassero a comprare un po' di cose su Amazon, a noi arrivano un po' di soldini e si può fare l'investimento per il microfono di Max. Per pianificare almeno per livellare tutti quanti i livelli audio di tutti e No, ma tre, sai cosa? È che alla fine il microfono del Mac non si sente male. Solo che io lo trovo leggermente metallico, è un po' meno caldo. Ti spiego anche perché il Bravissimo, microfono ecco, del noi Mac. aspettavamo questo da parte Scusa, tua. allora no, il microfono integrato nei Mac, che comunque è un microfono decente. Tu che cos'hai? Un portatile o un iMac? MacBook Air portatile. Ok, non mi ricordo se quelli hanno il doppio microfono oppure no. Beh, diciamo che sono microfoni pensati per essere microfoni, tra virgolette, ambientali, ovvero sia che prendono il suono non solo se stai proprio davanti al Mac, ma se magari sei a un metro di distanza o un po' di lato. Per cui tendono a prendere un po' tutto l'ambiente. Questo significa che i programmi quando. Cioè, l'ambiente di per sé è rumoroso, c'è sempre una sorta di fruscio più o meno intenso a seconda dell'ambiente in cui si registra, dell'ora del giorno, eccetera, eccetera, da un sacco di questioni. Se la ventola va o non va, se è un air, difficilmente credo che vada una ventola. Detto questo, quando si passa attraverso un filtro di riduzione del rumore, so anche benissimo quale state usando perché ho usato il programma che ho scritto io, praticamente più è alto il rumore di fondo e più questo va ad intaccare la voce. In più, dato che il microfono è di piccole dimensioni, perché deve stare appunto in un computer portatile, la gamma dinamica, cioè, la gamma di frequenze che raccoglie quel microfono non è così ampia come quella di un microfono più grande o a condensatore, come potrebbe essere. Quello che utilizza Mario, quello che utilizzo io. L'unica differenza è che la mia è la versione non USB, quella di Mario è quella USB. Questo fa sì che magari le frequenze più basse e quelle più alte della voce vengono un po' attenuate, e questo fa sì che il suono risulti un po' più piccolo, tra virgolette, diciamo, un po' meno ricco, un po' meno caldo. Per questo, quello che dicevi anche tu, meno caldo proprio per questo motivo. Non è proprio come parlare al telefono. La telefonata taglia tutte le frequenze sotto i 100 Hz e sopra i 3000 Hz. Per cui la telefonata sentite che è proprio una cosa che sa di vecchissimo. La voce umana sta, appunto, può arrivare a range anche, arrivano anche fino ai 10 kHz per certe consonanti sibilanti nella voce femminile e andare più in basso dei 100 Hz. Per cui tagliare via le frequenze più ai bordi genera un suono un po' più piccolo. Queste sono le due indicazioni. Bene, bene. Avete visto perché abbiamo invitato Alex? Perché noi ci arrabattiamo su ottenere una qualità buona e lui sa esattamente perché come funziona. E solo Troppo carini. per informazione, abbiamo trovato, anzi, Alex ha trovato quanto costa Audition. Non so se è il caso che ve lo diciamo oppure no, perché non costa poco. Beh, l'obiettivo di Adobe è quello di farvi prendere tutta la suite completa. Ve lo diciamo, la suite completa costa 60,99 € al mese. Per prendere tutti i programmi di Adobe, tranne un paio, e 24,39 € al mese per prendere un'applicazione singola, per cui è un po' controproducente. Ma fanno che il pacchetto grande ha un sacco di sconto, sì. Comunque sì, ma loro puntano in realtà Audition, non, cioè, secondo me non gliene frega neanche niente di venderlo. Loro puntano a creare dei gruppi di come si dice, di utenti, magari gli utenti che fanno sviluppo web, e allora si tirano giù tutte le cose di Dreamweaver, eccetera, eccetera, come si chiama, Muse, tutte quelle cose che servono per fare web animation, web engineering, eccetera, eccetera. Poi quelli che fanno fotografia, allora Photoshop, Lightroom, eccetera, eccetera, quelli che fanno video, cioè Premiere, After Effects, e chi fa video di solito fa anche un po' audio, per cui ci mettono dentro Audition. Devo dire che tra tutti i prodotti di Adobe, Audition è un bel prodotto, però non regge il livello qualitativo che hanno altri prodotti. Per esempio Premiere, che io non uso ma conosco, è un ottimo programma di montaggio video. Audition non ha lo stesso standing, cioè un prodotto analogo potrebbe essere Pro Tools, per dire, per Logic, che è sviluppato da Adobe, da Apple, scusate. Audition è un po' una sorta di oggetto che sta a metà strada. Infatti, presa da sola, 24 euro al mese sono sì, ma non la vuole nessuno, chi se ne frega, cioè, e in questo caso per fare un podcast, Audacity tutta la vita. Bene, bene, quindi si rimane sul software gratis. Alla fine abbiamo nell'elenco delle cose che usiamo, l'unica spesa vera, oltre al PC, che normalmente una persona che vuole fare un podcast ha già, c'è il microfono. Il microfono e soprattutto l'asta. Adesso, le aste sono di due tipi: sono le aste da scrivania, che sono praticamente dei piccoli tripiedi, come i tripiedi delle macchine fotografiche compatte. Avete presente quelli da scrivania? Sì, Dei piccoli è quella tripiedi. che ho io, solo che non è a tre piedi, ma è singola. Ok, quelle che appunto si mettono sulla scrivania, e quelle che invece hanno una sorta di braccio che appunto, quelle da scrivania, il microfono viene dal basso verso l'alto, e invece quelle a braccio che tendono a mettere il microfono dall'alto verso il basso. In entrambi i casi bisogna sempre fare attenzione, perché magari se si ha l'oggetto sulla scrivania e magari si digita forte sui tasti, come sto facendo adesso in questo momento, le vibrazioni vengono trasmesse al microfono, per cui è una cosa da tenere conto. Infatti, il secondo oggetto hardware che si acquista è quello che si chiama ragno, che è praticamente una sorta di cerchio molto grande che si avvita nella stessa vite del microfono, e però mediante una serie di elastici che reggono un'altra fessura, insomma, si inserisce il microfono a forza in questa fessura, e ci sono tutti questi elastici che lo mantengono in sospensione, ma che, dato che sono elastici, diciamo disaccoppiano i movimenti, le vibrazioni della scrivania, dell'asta, da quelle del microfono, e così facendo le vibrazioni sono molto meno sensibili, e non si hanno tutti questi effetti di rimbombo. Il Io terzo, ho. scusa, il ter... Vai, vai. Vai, vai. No, scusa, vai No, no, no, avanti. continua, finisci pure. Il terzo oggetto hardware che si può pensare di acquistare si chiama filtro anti-pop, ed è praticamente una sorta di retina che appunto si appiccica, una sorta, con un altro braccio all'asta. In questo caso bisogna avere un'asta verticale, diciamo, non quella come si dice, da pavimento, non pavimento, da scrivania, perché si avvita, ed è una sorta di filtro, di spugna, diciamo una retina, che si deve interporre tra il microfono e la bocca, e l'antipop, diciamo, che serve per attutire le consonanti come la P di Pippo, perché sono quelle che danno molta. Sono, se una persona non sa bene come pronunciarla, dice P e dice, proprio trema tutto, perché è quella che dà la più forte onda di pressione dalla bocca al Ah, microfono. quindi lui non fa altro che smorzare questa pressione forte sul Yep. microfono. Sì, non ho ancora capito se funzioni anche col respiro, perché sapete, quando uno poi respira, magari velocemente, quando parla, respira con la bocca, per cui il movimento dell'aria passa vicino al microfono e genera una sorta di Sì, una vero, cosa. vero. Non ho ancora capito se questa cosa funziona oppure no. Però non ho mai fatto uno studio così tanto approfondito per vedere se funziona oppure no. Probabilmente l'attutisce e la modifica, però non la eliminerà del tutto, immagino. No, ma tutto del tutto lo elimina del tutto. Se crea disaccoppiamento, allora non si sentirebbe neanche la voce. Se lo attutisce anche solo i 3 decibel, sì, sarebbe una cosa buona. Ok, ho appena visto su Amazon come fatto un filtro anti-pop. No, non ne sapevo neanche dell'esistenza, ma l'avevo già visto, sì. Perché nei classici video storici c'è sempre lui davanti al microfono. No, ma si vedono anche se guardi, ho visto le radio hanno il canale satellitare, quindi vedi la trasmissione in diretta live dalla televisione. Alcune radio, ma penso forse tutte, ce le hanno. Questi filtrini sono tipo piattini circolari con questo filtro dentro, tipo sembra una spugnetta quella che ricopre i microfoni, poi leggermente. Che tra l'altro fa 9 euro, 10 euro. Ah, bello. Sì, però vi consiglio, la prima cosa da prendere è il ragno piuttosto che l'antipop. Il ragno vi cambia la vita. al posto del ragno ho risolto questa faccenda delle vibrazioni sul tavolo che mi davano un fastidio della miseria, prendendo un bel pezzo di stoffa, lo piego più volte, va anche bene una maglietta, e ce lo appoggio sopra il microfono, disaccoppia benissimo dal tavolo. Beh, applauso, perché anch'io facevo così con un cuscino. Ecco, giusto anche il cuscino, solo che il Rode pesa, cioè il microfono in sé boh farà 700 grammi, una roba del genere, e se lo metto su una base troppo morbida cade. Sì. E quindi l'ho dovuto fare con una cosa un pochino più solida. Comunque stiamo dimenticando che proprio tra di noi in grembo abbiamo un maker, cioè Mario per la precisione, che si è fatto casa con, sì, gli elastici e il cartone, cioè... voglio dire, vero, ce l'aveva mandato, ma lo ha pubblicato anche su Google Plus. Ora vado a pescarlo e poi lo metto nelle note dell'episodio. L'aveva fatto ancora prima della prima puntata. Pensa quanto si ruderà le mani per non essere qui adesso. Poteva dire sì, io l'ho fatto, sono avanti a tutti quanti. Verissimo. Bene, quindi abbiamo parlato del PC, abbiamo parlato del microfono, che alla fine vale la pena un piccolo investimento. Abbiamo parlato del software, ora bisognerebbe parlare del montaggio. Dunque, noi facciamo così, visto che la qualità della conversazione su qualunque sistema di chat, che sia Hangout, quello che usiamo noi, che sia Skype, non è sempre eccelsa, soprattutto per problemi, suppongo, di banda. Ogni tanto la voce va giù, sparisce. Se ci fosse una sola persona che registra tutto l'audio, la qualità sarebbe sensibilmente più bassa. Noi cos'è che facciamo? Ognuno si registra la sua traccia, poi la mandiamo al buon Mario, che continua a essere assente, e lui la monta. E invece c'è Alex che ha fatto un tool che è spettacolare, vero Alex? Allora, io faccio podcast da circa 5 anni, 4 anni e mezzo mi sembra. Ho iniziato con Simone Pizzi, che mi ha intervistato per un suo podcast, e poi mi ha detto, allora non neanche sapevo cosa fossero, e allora ho cominciato ad ascoltarne in giro, e poi a un certo punto ho detto vabbè, adesso ne faccio anch'io. E lui ha cominciato a fare podcast che parlavano di robe che magari mi interessavano, tipo storia di videogiochi, e diciamo che mi sono unito al baraccone di Italian Podcast Network, e prima come ospite soltanto, poi dopo come conduttore, poi giustamente, dato che lavoro molto con il video e di conseguenza anche con l'audio, mi sono occupato anche di editarli i podcast. E per un po' ho fatto un lavoro proprio a mano, nel senso prendevo le tracce, le sincronizzavo io, e pulivo, facevo tutte queste cose. Diciamo che un podcast di 2 ore mi portava via 8 ore di post-produzione, ma perché volevo fare le cose fatte veramente bene. E poi a un certo punto le cose sono cambiate, mi sono messo a fare altre cose. Un anno fa mi sono messo a lavorare, no, 2 anni fa mi sono messo a lavorare con Justin Rosati per il podcast Justin Apple, non so se lo conoscevate. No, devo essere sincero. Vabbè, no. Insomma, era uno dei podcast più seguiti sul mondo Apple in Italia. Okay. E sì, diciamo che è stato chiuso ufficialmente qualche settimana fa. Ah, ok. E le cose, la gente cambia, insomma, si cresce, si fanno strade, si percorrono strade nuove. Però diciamo che quando a un certo punto lui mi ha invitato lui come ospite più di una volta, gli mandavo il file e lui faceva dei lavori terrificanti. mi diceva: io non c'ho tempo di imparare a pulire l'audio, non c'ho tempo di fare le cose fatte bene, vengono un po' a cazzo. Cioè, in realtà poi i contenuti erano molto belli, però la forma era difficilmente ascoltabile. E allora mi sono detto, visto che avevo scritto questo software per creare l'audio dei giapponesi, ho detto, perché non posso sfruttare tutte queste librerie che mi sono scritto per fare qualcosa che possa aiutare la gente che non ha voglia di sbattersi a fare podcast? E allora, per cui mi sono messo, la prima cosa che ho fatto è trovare il nome, è stato Pod Cleaner, perché pulisce l'audio dei podcast. Beh, il nome che parla di quello che fa è il marketing migliore, suppongo. Sì, infatti ci ho messo una vita poi a comprarmi il dominio, perché sono un pitocco, non ero ancora sicuro se scriverlo o no. E inizialmente ho scritto questo tool che serviva praticamente me e Justin, che è stato il mio primo alfa, neanche alfa tester, nel senso, è stato il mio paziente zero. Cioè, lui, io volevo tarare su di lui, che comunque è un ingegnere informatico, cioè nel senso, per cui, però sulla parte dell'audio non ne voglio di sbattersi, volevo tarare su di lui la funzionalità. E la prima cosa che ho voluto fare è: ci sono mille programmi che fanno audio, tipo Audition, Audacity, che fanno delle cose perfettamente, io ricreare da zero queste cose non ci sarei mai riuscito. La cosa che volevo fare è costruirmi un tool che mi servisse, mi aiutasse a fare quello che invece io faccio io di persona, che non potevo fare un filtro. E sulla base di quello che ho sviluppato per i giapponesi, avevo praticamente in mano una cosa molto forte, praticamente un filtro che non lavora come tutti gli altri filtri audio, perché la mia idea era quella di far sì di prendere tutti i rumori di fondo e tagliarli via, ma dove i rumori di fondo sono magari uno che gita sulla tastiera, un click, uno starnuto, cioè queste cose che sono molto, molto verticali ma molto corte nel tempo. Allora il Pod Cleaner, la prima cosa che fa è analizzare un file audio e andare a identificare quali sono tutte le parti di dove c'è del rumore, che possa essere un rumore di fondo parlato, e dove c'è del silenzio, facendo una sorta di analisi. E lì lavorare sul valore di default è stato molto difficile. Ecco, scusa, ti interrompo. Ora noi siamo famosi per il fatto che andiamo nel profondo, senza andare nel tecnicismo al singolo bit. Come si fa a prendere un file audio e analizzare queste cose qui? Allora, inizialmente Pod Cleaner lavorava soltanto con file WAV, mono a 16 bit, che sono quasi lo standard per quando uno registra l'audio. Mi sono scritto un parser di file WAV, significa che ogni campione è costituito da 2 byte, molto semplicemente, con valori che vanno da più 32.000 a meno 32.000. Codifica PCM, per cui per ogni singolo campione sai esattamente qual è il valore di tensione, è molto chiaro. La mia analisi in realtà poi è molto grossolana, perché non prende ogni singolo campione, ma ne prende uno ogni 120, se non sbaglio, per essere più veloce. Tanto sui numeri funziona questa cosa, sui grandi numeri, non ha mai perso un colpo, probabilmente potrebbe andare anche su un campione ogni 400, per dirvi, però diciamo che questa cosa così funziona. Per cui idealmente il mio software si crea una mappa mentale di dove stanno i volumi più alti, i volumi più bassi, e li raggruppa in cluster, nel senso, ci sono tanti tanti sample diversi di alto volume vicini tra loro, cioè, ok, qui c'è un cluster di qualcosa, un gruppo, e poi analizza tutti i cluster e capisce quali sono più corti di una certa soglia, sotto mezzo secondo. Allora questi qui sono dei rumori di fondo, come uno starnuto, un clap, un click, per cui li taglia via. E tutto quello che viene tagliato via viene messo a zero, ma in modo molto morbido. Tutti i noise gate, giustamente, perché prendono parte dalla controparte reale, hanno un tempo di attacco molto veloce, dell'ordine al massimo di 20 millisecondi, per cui si passa dal silenzio assoluto fino al parlato in un cinquantesimo di secondo. E questo però non fa prendere né il respiro del parlato né magari la prima parte della consonante. Pod Cleaner invece, dato che analizza i cluster tutti come se fossero nel file intero, praticamente ogni volta che vede che c'è un cluster che inizia, torna indietro di una certa quantità di tempo, tipo 2 decimi di secondo, 3 decimi di secondo, uno può mettere qualsiasi valore, però il valore di default è 2 decimi di secondo, e per cui si sente questo respiro e anche la parte finale, per cui la pulizia del suono viene fatta così. Altre parti di pulizia del suono vengono, cioè il denoiser, l'equalizzatore, vengono realizzate con una libreria che è Sound Soxlib, che credo che conosciate, che è open source e ovviamente citata, quotata in Pod Cleaner. e questa per la parte di pulizia del singolo file. In più mi sono detto, visto che io lavoravo con Justin e ogni tanto sbagliava anche a sincronizzare i file, e spiccato si rompeva le palle, ho detto, come si fa a sincronizzare due file registrati da due persone che stanno in due posti differenti, ognuno registrando soltanto la propria componente la propria voce. E perché io quando faccio queste cose andavo a occhio, okay, vedevo le forme d'onda e le spostavo finché non c'era nessuna sovrapposizione. Mi sono detto, se lo so fare io, lo può fare anche un computer. Allora diciamo che ho insegnato il computer a trovare la sovrapposizione minima dei cluster, perché idealmente, ed è una cosa che funziona sempre, quando una persona parla mediamente gli altri stanno zitti e viceversa, per cui inizialmente con due file lui si fa una sorta di tara, becca il momento di minima sovrapposizione e tutto funziona. La cosa interessante è che fa una sorta di ricerca dicotomica, per cui inizialmente prende i due file e li shifta tra loro di 10 secondi in 10 secondi, e poi dopo, quando trova la combinazione migliore, comincia ad andare nell'intorno a diminuire 5 secondi, poi 2 secondi e mezzo, fino ad arrivare a un centesimo di secondo di sovrapposizione, andando sempre andando sempre più velocemente a trovare il momento in cui c'è minore sovrapposizione tra i cluster di voce. E dopo averlo fatto per due file ho ampliato l'algoritmo fino a 3, 4, fino a 5 file. Poi dopo, insomma, diventa un po' complicato. Dato quasi nessuno registra più di 5, per adesso va bene così. Ma diciamo che questo software, da quello che ho sentito da Mario è felicissimo, perché lui prima diventava matto per la sincronia delle nostre voci, e per quello che facciamo il rito della sincronizzazione, perché lui almeno aveva modo di allinearsi. E ci ha detto, da quando uso Pod Cleaner io metto le tracce, fa tutto lui, poi lo apro in GarageBand, ci aggiungo l'audio di inizio fine, le sigle, e va tutto perfettamente a posto. Sì, devo dire che dipende molto, cioè in realtà con i valori default 99 volte su 100 funziona già e basta. Ci sono un po' di problemi quando una persona magari ha iniziato molto tardi a registrare, magari mettiamo caso che siamo io e te che registriamo e dopo mezz'ora arriva un altro, e allora bisogna nelle versioni precedenti questo non era possibile, c'era il massimo ritardo era di 10 minuti. Adesso invece ho creato una sorta di menu, cioè nella versione la 1.2 che è in beta pubblica da una vita, fra un po' diventerà anche quella definitiva, c'è una possibilità di dire, oh guarda che uno è arrivato più tardi di 30 minuti e per cui il lavoro di fino non viene fatto, però gli si dice all'incirca 30 minuti, e poi lui Pod Cleaner cerca di sistemare le cose. È stato, dal punto di vista computazionale, lavorare con più di tre file è stato complesso, e soprattutto perché i tool di sviluppo che uso io sono un po' cazzoni, diciamo, per cui ho dovuto aggirare un po' i problemi. E infatti, perché il tool di sviluppo che io non permette di lavorare, di sviluppare in multithreaded, per cui mi sono scritto una libreria che gestisce il multithread, lanciando diverse copie proprio dell'applicazione e comunicando con quelle, affidando a ogni copia dell'applicazione una parte del problema e poi facendo un join finale, ma non a livello di thread, ma a livello di applicazioni. Non è bello da vedere, però funziona. Beh, il risultato gli ascoltatori ce l'hanno da, mi pare, tre puntate. Se non ricordo male, può essere su quel periodo. Ora si spiega perché ogni tanto si apriva una finestra quando lo usavo. Adesso ho capito. Ok. Un'ultima cosa che ho aggiunto su indicazione proprio di Mario è che lui ha avuto un problema, per cui una delle persone in uno dei podcast precedenti ha dovuto interrompere una registrazione e per poi farla ripartire. Questa è sempre stata una cosa complicatissima, perché praticamente oltre a fare la sincronizzazione iniziale bisogna rifarne un'altra a mano, e in Pod Cleaner era impossibile. In realtà sempre su suggerimento suo mi è venuta un'idea, cioè nel senso, abbiamo bisogno di questa cosa, come facciamo? E allora mi è venuto in mente che potevo far sì che di caricare nello stesso progetto di Pod Cleaner magari due file, ognuno di, corrispondente a un trancio, cioè un pezzo diverso della registrazione prima e dopo l'interruzione, e dire che uno di questi file è figlio del precedente, in modo da dire questo qua inizia quando finisce l'altro, e PodCleaner si occupa lui di fare questa cosa, e funziona benissimo, e devo dire che l'ho fatto in mezza giornata neanche, questa parte di sviluppo, ed ero molto contento. Poi in realtà è tutta una questione di algoritmi, perché come applicazione ha delle cose belle e ha delle cose brutte. Io personalmente sono molto felice di questa cosa, perché credo di sentirmi ancora un po' giovane quando trovo uno sviluppo software, perché così diciamo che tengo allenato il cervello, non si arrugginisce, cosa che succede comunque, però faccio finta di essere ancora giovane così. Ma scusa, quanti anni hai? Io ne ho 41 fra un mese e mezzo. Ma quindi sei il più vecchio della... Sono vecchio, della, sì, sono vecchissimo. ...della banda. No, ma non sei vecchio, non ti preoccupare. che bisogna cominciare a convincerci anche noi che non stiamo diventando troppo vecchi. Lasciamo perdere, vai. Diciamo che questa parte bisognerebbe tagliarla, ma non importa. Sì. Noi non tagliamo i pezzi di podcast, torniamo giovani e nerd, che è meglio. E quindi alla fine abbiamo parlato del PC, del microfono, del software, del montaggio. Manca un piccolo pezzo, noi aggiungiamo... anzi, lo fa Mario. Non c'è Mario, ma parliamo solo di Mario. Mi sembra di essere nel film Non ci resta che piangere quando dicono grazie Mario per qualunque cosa. E ci occupiamo di aggiungere qualche sigla, qualche stacchetto e queste cose qui. La parte tecnica è molto semplice. Si ha un pezzo di audio con Audacity, lo si importa, lo si mette prima o dopo, si fa il fade e il montaggio è fatto. Alex, dimmi se sbaglio, ma non penso sia... Il principio è questo. Perfetto. Il problema è la legge, i diritti e il copyright. A me piacciono molto i Metallica, ma non posso mettere un attacco di una canzone dei Metallica, perché dovrei pagare loro per la distribuzione. Noi cosa facciamo? Ti rispetto al fatto che sei un metallaro, mi piace tantissimo. Ottimo. E che cosa facciamo? Noi ci appoggiamo a Jamendo. Non so se tutti lo conoscono, ma Jamendo è un sito dove artisti indipendenti caricano la loro musica e la caricano in Creative Commons. Di conseguenza si può usare la loro musica senza per forza dover pagare. Poi la Creative Commons ha un sacco di declinazioni, ma nella media basta mettere una citazione, che è quello che noi facciamo alla fine di ogni puntata. Ci siamo scelti la nostra canzoncina da Jamendo, o Jamendo, ora non so bene qual è la pronuncia giusta. E in effetti lì di possibilità ce n'è a iosa. Devo essere sincero, non so dove Mario prenda gli stacchetti. Questo lo ignoro. Glielo chiederemo nella prossima puntata. A meno che non siano quelli di GarageBand, visto che li monta lì. Ah, può anche essere. Sì. Devo essere sincero, non li ho neanche mai provati gli stacchetti di GarageBand. Tutto questo implica che però ci sia una registrazione, una post-produzione e una pubblicazione. Questo non si può fare se uno facesse lo streaming in diretta. Noi su questo ancora non ci siamo lanciati, devo essere sincero. Non so neanche se ci interessa, perché non abbiamo neanche mai parlato. Guarda, ti dirò, io ne ho fatti alcuni. Dal mio punto di vista, io utilizzavo altre piattaforme. Ho sempre utilizzato per lo streaming live stream, perché occupandomi di video conoscevo quella come piattaforma, e devo dire che quando facevo queste cose era difficile parlare, essere un ospite, un conduttore, e fare anche la regia degli stacchetti, delle cose. Era il caso di tenerli separati. Con Hangout questa cosa è già più fattibile. Dal punto di vista sociale è molto comodo, perché se hai una certa base di utenti, anche 5 o 6 per dirti, che ti seguono live ti possono mandare un feedback istantaneo su quello che stai dicendo, darti delle risposte e farti delle domande, ed è, in questo è molto molto comodo. Però ha anche senso per magari dei format differenti, magari per dire, cioè un podcast in cui si parla di un argomento, che ne so, parliamo di audio, allora uno si fa tutto il podcast, poi magari fa il podcast botta e risposta, oggi facciamo botta e risposta con il nostro ospite su Arduino, per dirvi, e allora a questo punto c'è, cioè, la gente interviene, lui risponde ed è diventa più un talk show. Hanno due approcci differenti le cose, non mutualmente esclusivi tra l'altro. Ma io ho notato che il live ho notato un problema grosso del live. Ho ascoltato alcuni podcast in live con l'intervento degli ascoltatori così forte che ascoltato poi in podcast perde ogni senso. Cioè, se io sto facendo il live e ho una chat con la quale faccio dell'interazione pesante, quando poi lo pubblico e la persona lo ascolta in macchina mentre va in ufficio, si perde il filo. Non si riesce. È vero. È un'altra cosa. Diventa una registrazione di qualcosa che non è più in diretta ed è più. Cioè, è un'altra cosa ancora. Sono due format diversi e alcuni funzionano di più sull'offline, alcuni funzionano di più sul live. Io cito uno dei podcast che ascolto abbastanza spesso, che è Digitalia. Quando fanno, per esempio, il live delle presentazioni dei prodotti, io non ascolto neanche quella puntata lì che pubblicano, perché perde di qualunque senso. Cioè, secondo me, in alcuni casi il live è bene che resti live e basta. Sì, devi essere lì nel momento e seguirlo insieme a loro, altrimenti non... Sì, se no non ne vale la pena. È come dire, io faccio un podcast live come facevano, non so se ve lo ricordate, la Jalapas, quando commentava le partite dei mondiali. Esatto. È molto divertente in tempo reale. Ascoltato dopo non ha più alcun senso, perché la partita c'è già stata, sai già com'è finita, non la stai guardando e quindi ha poco senso. È per quello che siamo un po' combattuti sul fatto di farlo live oppure no. Però sarebbe carino provare una volta, magari una puntata veloce, tipo di una mezz'ora con un po' di persone, se qualcuno ha domande. Tu lo sai che noi non siamo capaci a fare solo a mezz'ora, vero? Sì, lo so, sono anche le 10:40, abbiamo iniziato da un'ora e mezzo all'incirca, quindi è una puntata sì, corta. È un'ora... E mezza, sì, doveva essere una puntata rapida questa. e quindi direi che per la parte audio abbiamo un po' analizzato tutto. Visto che abbiamo qui l'esperto, io gli chiederei se ci siamo dimenticati di qualche cosa, oppure se lui in diretta ci può dare un qualche consiglio per le nostre produzioni e per le produzioni che gli ascoltatori potrebbero voler provare a fare. Allora, sì, allora, per gli stacchetti sì, avete detto le cose giuste. Per me è molto importante la musica di sottofondo. Credo che l'abbiate anche voi, una musica di sottofondo. No, noi abbiamo solo la sigla d'inizio e di fine. Ci abbiamo provato, ma l'abbiamo trovata tutti di disturbo. Forse è un fatto che il volume era un po' troppo alto, no, non lo so. Va bene, allora, proprio la musica di sottofondo è la cosa più delicata. Dal mio punto di vista, un punto di vista prettamente tecnico e filosofico, a me piace l'idea, perché vuol dire serve, perché da ritmo, da calore alla trasmissione. Però bisogna trovare una musica che sia proprio una background music. Proprio bisogna cercare BGM su internet, o sui vari siti tipo Jamendo o Premium Beat o Pond 5, tutte queste cose, in modo che ci sia una musica che sia una non musica, una cosa che appunto mediamente ritmata ma che non abbia una sua identità. Perché molto spesso mi capita di ascoltare dei podcast in cui c'è delle musiche di sottofondo che sono anche molto belle, magari sono delle canzoni, e che se l'ascolti una canzone per 3 minuti va bene, ma se ascolti una canzone per 45 minuti, dopo un po' vuoi ammazzare qualcuno. Questa è una cosa difficile che molti inizialmente fanno come errore di tirare dentro delle canzoni, e magari metterle anche basse, però sono presenti. La musica aiuta moltissimo per mascherare dei problemi di ritmo e tecnici della voce. metti caso che stai registrando, c'è un rumore di sottofondo che magari non viene tolto dal programma, quello potrebbe essere pull cleaner o viceversa, nel senso, cioè, c'è un click o qualcosa del genere, se lo senti normalmente dà fastidio, se invece ci metti la musica di sottofondo, questa qua alla fine lo copre. E così anche con la pulizia del rumore. Metti caso che stai registrando in un ambiente rumoroso, e per cui il filtro di riduzione del rumore comunque va leggermente a intaccare anche le frequenze della voce, se ci metti la musica in sottofondo questo intaccamento è meno percepibile. L'orecchio umano alla lunga le sente tutte queste cose, però a livello proprio razionale molto meno, per cui aiuta molto. Un consiglio che do a tutti nella musica di sottofondo: prima di tutto utilizzare un equalizzatore abbassando le frequenze dai 500 Hz fino ai 5000 Hz, che sono quelle le frequenze più rappresentate dal parlato. In questo modo si può tenere la musica di sottofondo un po' più alta senza che però vada a disturbare il parlato stesso. Se voi ascoltate la radio, le musiche di sottofondo in una radio DJ, per farvi capire, la prima che mi è venuta in mente, sono molto forti, però comunque il parlato è piuttosto intelligibile perché la musica di sottofondo ha una curva di equalizzazione molto, molto decisa che ammazza tutte le frequenze dai 300-500 Hz fino ai 3-5000 Hz. E questo aiuta tantissimo perché la musica c'è, ma non rende non intelligibile il parlato. È una pensata furba, non ci avevo mica mai pensato al fatto di tagliare solo le frequenze del parlato, perché in effetti il parlato più su di una certa frequenza non ci va mai. No, ci va, però ci va soltanto con delle frequenze che danno dei piccoli abbellimenti, cioè nel senso non rendono non intelligibile, per cui in quei casi ci può stare la sovrapposizione. E non va a distorcere un po' la parte parlata della canzone, questa equalizzazione marcata? Ma tu non devi avere una canzone sottofondo, non devi avere una canzone cantata. Okay. Sì, se no si sovrappone la parte cantata della canzone con le parole. Poi penso che questo filtro sia quello che tanto tempo fa mettevano i dispositivi di karaoke, che ti dicevano faccio karaoke sulla canzone vera e non sulla base MIDI. Sì, sì, sì, è vero, esatto, proprio così. Ovviamente questi karaoke non andavano a abbassare, andavano proprio a uccidere queste frequenze, in realtà non vanno uccise, vanno soltanto abbassate. Ah, sì, potrebbe provare a mettere a cercare una canzone di sottofondo e fare qualche test. Invece appunto su dove andare a cercare questo tipo di contributi, se non si vuole spendere niente, forse su SoundCloud qualcosa si trova. In Creative Commons, io ne ho trovate alcune su Creative Commons e sono molto felice. Se si può spendere qualche 5, 10, 15 dollari, io mi rivolgo sempre a un sito che si chiama pond5.com, che fondamentalmente è un sito che vende contributi, video, audio, fotografie, eccetera, eccetera. Contributi però creati dagli utenti. Io stesso vendo dei video su Pond5 quando li realizzo. Per cui ci sono molti utenti, molti musicisti che creano delle musiche di sottofondo e le distribuiscono a 5 dollari, 10 dollari. E uno se le compra e le può utilizzare esattamente come crede, e diciamo che appunto senza andare a scomodare Metallica sono cose abbastanza gestibili e tra l'altro sono molto corporate oriented, per cui si trovano delle cose che hanno un senso sia come musica di sottofondo per filmati che appunto per podcast. L'altro sito che vi consiglio è premiumbeat.com, che invece è pensato esclusivamente solo per l'audio e per il sound design. Significa che voi andate lì e ascoltate una libreria di centinaia, se non migliaia, di non soltanto di canzoni o di musica, ma anche di pacchetti. Per cui comprate un pacchetto da 35 dollari, dove praticamente trovate la musica di sottofondo, lo stacco iniziale, lo stacco finale, un intermezzo, cioè tutte queste cose, e sono tutte armonizzate tra loro, tutte declinazioni dello stesso tema, magari una lunga 5 secondi, una lunga 10 secondi per fare la sigla, una lunga un minuto loopabile per fare la musica di sottofondo. Per cui trovate questi pacchetti già pronti, uno avere un minimo di voglia di investire. 35 dollari per un pacchetto sono praticamente niente, cioè. Beh, ovviamente, cioè, ovviamente è un costo che non è zero, per dire, però io sono il primo a dire che se si può fare economia, facciamo economia. Per cui magari lo staccato su SoundCloud, almeno all'inizio e alla fine, ci può anche stare. Carino, grazie per le informazioni. Ci hai aperto un piccolo nuovo mondo. E... sì, diciamo, scusate, i siti che vendono materiale esistono da sempre. Le agenzie fotografiche avevano questo scopo, nel senso raccogliere le fotografie dei grandi dei fotografi che andavano in giro del mondo a fare reportage e poi le rivendevano alle testate giornalistiche. Negli ultimi 5-10 anni, soprattutto gli ultimi 5, c'è stata una rivoluzione dal basso, per cui l'acquisto di qualcosa non era legato a una particolare agenzia, ma è legato praticamente a chiunque. Tu domani, Francesco, fai una fotografia bellissima, dici cazzo, la voglio vendere. La vendi a un prezzo molto basso, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, e per cui però ripeto, la vendi tu attraverso questi siti. E a questo punto diventa tutto il processo di tag, di indicizzazione, eccetera, eccetera. Però insomma, io personalmente vendo alcune. Proprio stamattina mi sono svegliato, ho venduto una clip. Di solito quando così mi offro un caffè da solo, perché sono contento. Beh, è una soddisfazione. Personale, mica da poco, direi. Sì. Beh, in realtà, perché poi io è un sito che uso moltissimo per acquistare, dato che quando fai video corporate hai bisogno di video che ti aiutino a raccontare una storia, cioè le famose immagini di repertorio, o le hai girate tu o le trovi girate da qualcun altro. Questo è un gran mezzo di interscambio, per cui se stai cercando, che ne so, immagini di Londra, perché devi fare un video che sia nella nostra società di Londra di qua, e allora hai bisogno di 3-4 clip che mostrino Londra, eccetera eccetera, e invece di rubarle su YouTube le compri lì, molto semplicemente, anche perché appunto come non si può usare Enter Sandman, non so perché mi è venuta in mente una delle canzoni che mi piace di meno, dei Metallica, utilizzi e non si può neanche rubare su YouTube un video di qualcun altro. Invece così le cose vengono fatte nella giusta legalità, sia economica sia morale. Eccola. Il fatto è che purtroppo ci rendiamo conto che ora usciamo un po' dal seminato, ma in un sacco di testate giornalistiche c'è un furto continuo di contenuti. Spessissimo capita che il tal giornale pubblichi una foto e dopo 2 ore c'è quello che l'ha fatta e dice: uè, ma è mia questa. E loro ma allora ti dirò, soprattutto i siti web, mentre le redazioni dei giornali sono tendenzialmente gestite perlomeno da un direttore che è un giornalista che ha avuto la responsabilità dei contenuti, le redazioni web non sono quasi mai gestite da giornalisti e sono completamente separate, e gli stessi editori vogliono che siano separate. E infatti molto spesso, se tu guardi un sito tra virgolette giornalistico, difficilmente ti viene specificata questa è una testata registrata, bla bla bla bla bla bla. Viene visto come, cioè, proprio perché si vuole cercare di mantenere questa cosa. Magari puoi anche rischiare di fare la porcata, che però ti porta traffico, e siccome i siti web vivono sul traffico, sul traffico apparente, ci può anche stare che magari rischino una micro, anche una figura di merda, però nel frattempo hanno fatto un po' di soldi con l'advertising. È tristissima questa cosa, lo so. Molto però... triste, sì, vero. Cioè, il fatto che... si voglia solo portare traffico solo per i click sulle pubblicità. A parte che con me non funziona, perché io ho AD block e le pubblicità non le vedo. Anch'io. E quindi tutti quanti dicono che non è corretto, però io ogni tanto mi capita di lavorare su PC senza questi plugin, io penso che smetterei di navigare. No, ma in realtà, cioè, nel senso, la pubblicità ci può stare, ma se ha un senso ed è gestibile. Se il 90% dell'area di un sito web è fatto da pubblicità, capisci che a questo punto c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Ma soprattutto tu apri una testata giornalistica, perché parliamo sempre, rimaniamo sul tema, togli la D-block, ti accorgi che lo sfondo è tutta una pubblicità, sopra il titolo c'è la pubblicità, se clicchi nel posto sbagliato apri il sito della pubblicità, cioè è fatto apposta per rubarti il click e catalizzare il tuo sguardo dappertutto tranne che sull'articolo che volevi leggere, e così diventa un po' troppo, secondo me. Sono assolutamente d'accordo. Sfondi una porta aperta. E sempre sull'audio, gli stacchi quelli tipo l'annuncio, queste cose qua, com'è che si fanno? Tu ne hai esperienza? Dipende, ci sono diversi modi di farli. Per dirti, Premium Beat ti vende nel pacchetti che ti dicevo anche proprio questi stacchetti qua. Io quando per il podcast su cui ho lavorato e ho fatto il sound design, di solito mi prendo il tema principale e praticamente faccio una sorta di crescendo dell'inizio e uno stacco alla fine, e ci aggiungo un po' di effetti sonori. Ci sono anche molte librerie di effetti sonori. Una di quelle che mi viene in mente è freesound.org, dove proprio sono gratuiti, dove li potete scaricare, e lì sta, ha un po' di esperienza nel sound designer di mettere insieme tre o quattro cose in modo che stiano bene e non che si annichiliscano a vicenda. Fare il sound design, cioè nel senso creare l'impronta sonora di una trasmissione, non è una cosa molto facile. Io mi reputo una persona alle primissime armi rispetto a questa cosa qui, però lo faccio perché, insomma, se non posso pagarmi un sound designer, lo faccio io, perché, sai, magari un podcast mi diverto anche a farlo e anche a sperimentare. Diciamo che ci vuole un po' di esperienza nel taglio musicale, in modo da riuscire a beccarsi gli stacchi in maniera che, appunto, abbiano un senso. Ecco, noi da quel punto di vista siamo molto più che alle prime armi, direi che non siamo neanche armati. Su Freesound trovate un sacco di effetti sonori. Uno potrebbe fare effettivamente tutto il sound design solo con degli effetti sonori, mettendoci insieme, che ne so, una pistola che spara, un vetro che si va in frantumi e un applauso per dirti: e già hai creato il tuo stacco sonoro. Per quanto concerne l'audio e le animazioni, io tendo a farle durare il meno possibile. Cioè, uno stacchetto dovrebbe durare 1 secondo e mezzo, 2 secondi. Magari che anche una coda molto lunga di riverbero, cioè nel senso, magari l'applauso dici che va avanti 10 secondi, che però appunto il momento di stacco, che può essere proprio uno stacco, deve essere come una sorta di pugno in faccia, SPOM! Ed è nel momento in cui ti accorgi che c'è stato uno stacchetto, è già finito. Però questo è gusto personale. Devo anche dire che però va di moda così, perché lo span di attenzione medio delle persone è di circa 15 secondi, per cui sprecarne 5 soltanto per fare uno stacchetto è rischioso. E non ne vale neanche la pena alla fine. Bene, bene, bene. Direi che con la parte audio abbiamo chiuso. Anzi, no, sai cos'è che mi viene in mente? La qualità. Nel senso, si parlava prima del telefono. Il telefono è nato un sacco di anni fa, hanno fatto degli studi e hanno capito che fino a 3 kHz e mezzo, se tu tagli lì la parola si capisce, è intellegibile. Il fatto che magari non riconosci tutte le voci non è fondamentale nel telefono. Con un podcast, a parte il fatto che il file non deve essere troppo grosso, tu cos'è che usi come compressione, come campionamento? Allora, il grande vantaggio dei podcast è che la parte parlata è la parte più importante, per cui la parte musicale sta comunque sempre un passo dietro. E di conseguenza, teoricamente uno potrebbe salvarlo anche in mono e fregarsene altamente. Per vezzo personale, di solito salvo i podcast in stereo a 128 kb al secondo in MP3, quando ne ho la possibilità di fare MP3, cioè nel senso, quando non mi chiedono di farlo in altro modo, per cui diciamo che 1 minuto di podcast occupa un megabyte, che è una cosa abbastanza compatibile. Se uno li potesse salvare, se uno li salva in formato AAC, che appunto è il formato, l'audio di MPEG 4, può dimezzare la banda mantenendo la stessa qualità. C'è chi li fa in mono andando a 48 kb al secondo, il che significa 6 kb al secondo, 360 kb al minuto, diciamo, e la maggior parte dei podcast audio può funzionare per certi versi. Però diciamo che magari qualche 10 anni fa l'MP3 a 128 era tanto, adesso è il minimo indispensabile, per cui ci può stare. Anche perché poi alla fine, se una puntata è grossa, in cellulare non te la scarica, mentre in rete wifi te la scarica in un Sì, femtosecondo. beh, noi cosa pesiamo? Una ventina di mega, penso. No, di più, dai. Sì? Sai che non. Lo sappiamo, sono le due. Non ho una puntata sul Mac, perché io Neanche per. io, perché io le cancello tutte una volta che le Ma anche ascolto. io, sempre, soprattutto perché le faccio scaricare dall'app del telefono e tenerle mi occupano spazio che posso dedicare a Spotify, quindi le ascolto e le cancello. Devo andare a cercare Allora, quanto pesa. ho visto che la vostra prima puntata di 46 minuti occupa 31 megabyte, per cui credo che stiate a 96 kilobit al secondo. Sì, penso di sì, sì. Però forse le puntate successive Mario ha alzato leggermente la qualità. Ma non ci giurerei. Ok. Niente, ci manca Mario. Dobbiamo dire alla bimbetta che deve farlo tornare, perché Poverina, non si può senza. si è un mese. Sì, no, neanche, perché è nata dopo che abbiamo fatto la puntata scorsa. Sì, ha un mesetto, giusto, giusto. Bene, quindi direi che abbiamo parlato di come ottenere il file audio. La prossima puntata parleremo di come si pubblica e si diffonde nel mondo dell'internet, quindi come fare il sito, come lo facciamo noi, come si può fare in alternativa, perché le possibilità a costo zero o a costo molto basso sono tantissime. Dove si può mettere il file? Perché se voi mettete il file sull'hosting, poi vi chiude il servizio se lo scaricano in troppe persone. Come si fa per pubblicarlo su iTunes e sulle varie piattaforme? Questo sarà più o meno la traccia di divagazioni a parte della prossima puntata. C'è altro? Ho detto tutto, mi sono dimenticato di qualcosa. Direi che ci siamo. Direi che ci Alex, tu siamo. hai altre cose? Collaboro da circa un anno e mezzo con il podcast Apple Horizon, non so se conoscete. Ok, e negli ultime 8 puntate ho questa rubrichina in cui si chiama Audio Video & Co. Nell'ultimo 8 puntate ho proprio parlato di registrazioni audio. Ho scritto un articolo proprio ieri che appunto raccoglie appunto una sorta di compendio di tutto quello che ho detto in queste puntate, con anche i link alle puntate stesse. Magari non ve ne frega niente di fare cross pubblicità, però magari ai vostri ascoltatori, se sono interessati, mi sentono dire cavolate però sull'audio, No, no, ma così. è interessante, il link Credo che lo ci siano mettiamo. 2 ore e mezza di me che blatero, forse anche un po' di più su tutte queste cose. So che Mario le aveva ascoltate ed era molto contento. Ma Mario, mi piace perché è una persona contenta di quello che io dico, per quello che io faccio, per cui lo sento come un grande amico di Berlino. Devi andare a trovarlo e farti portare dove ha portato me e Valentina a cena una sera. Ho mangiato lo stinco più buono della mia vita. Interessantissimo. Interessante. Non tanto lontano da Alexanderplatz, ma ti giuro, veramente, veramente buono. Siccome Berlino mi manca come città, sarei ben curioso di andarci insieme alla fidanzata, magari Non è un blog di quest'inverno. turismo questo, però ti dico che Berlino ne vale la pena, anche se ti mette un po' di magone quando cominci a pensare alla sua storia. E come dico sempre quando viaggio, come in qualunque posto dove io sia stato, si mangia bene, a patto che tu mangi quello che mangiano loro. Certo, Sono certamente. D'accordo. Sempre. Perché andare a Berlino a cercare la pasta asciutta, poi dice in Germania si mangia male. No. No, ma cioè, in generale, nel senso, uno va e i Chamberliner, cioè io vado e sono uno di voi, non faccio l'italiano all'estero, se posso. Esatto, e così ti togli delle soddisfazioni. Le culinarie, guarda, scopri delle cose interessantissime. Faremo anche un podcast di viaggi, dai. Allora, vediamo un po' di andare nella scaletta. La volta scorsa abbiamo parlato di retro gaming, quindi si cambia completamente l'argomento. E un Ascoltatore, che adesso sono furbissimo e ho chiuso il riferimento, ma ci arrivo subito, ci ha segnalato la sua esperienza sul aver messo la Retro PI sul Raspberry Pi. Ha fatto un post che vi linkiamo, che è molto interessante. Sto cercando il nome della persona. Alessandro Scarcella, ce l'ho fatta. Ho detto prima tutto quanto e dopo il nome. Vi lascio il link del post, che è proprio carino. Ha fatto anche tutta la storia dei videogiochi di qualche tempo fa. Sono quelle cose che noi leggiamo e ci sentiamo vecchi, perché parla di Commodore 64, perché parla di un sacco di cose che c'erano quando noi eravamo piccoli. Erano nuove quando noi eravamo piccoli, aspetta, che è leggermente Eh sì, eh sì. E differente. il fatto che ora il Raspberry Pi supporti tutti questi giochi e queste piattaforme è carino, perché ora la tecnologia ha fatto passi enormi, ma in questa schedina piccola, piccola, piccola, che non consuma niente, si può far girare roba storica. È interessante, e soprattutto se ne fa girare tantissima a un prezzo veramente basso. Ma veramente basso, perché il Raspberry costa $30 e poi basta comprare un controller. Ci sono persino i controller USB fatti come erano fatti i controller del Nintendo. Wow, Spettacolare. mitico. È proprio come sentirsi vecchi. Dolore. Bene, direi che abbiamo chiuso. Attenzione, entro le 2 ore. Siamo stati molto bravi ed Guarda, efficienti, c'è ancora direi. da dire tutti i contatti e quindi c'è ancora tempo per divagare, tranquillo. Ah, perfetto. Allora, direi che possiamo cominciare con i contatti del podcast. Mario, vuoi? Sì, Mario, ciao. Massimiliano, Guarda, lo vuoi faccio dirli io, tu? provo a fare la voce di Mario, dai. Ok, in perfetto Ah, ecco, tedesco gli però, eh. manca un po'. Vabbè, a parte gli scherzi, come al solito noi abbiamo più contatti, un contatto unico, un canale unico a cui rispondiamo tutti quanti, che è il contatto del podcast. E siete liberi di scriverci lì oppure a quelli personali. Rispondiamo un po' a tutti nei tempi più brevi possibili. Ad ogni modo, per il podcast abbiamo un account Twitter che è @geekcookiescast. Abbiamo una mail che è geekcookiespodcast@gmail.com. Ed ovviamente abbiamo il sito ufficiale in cui abbiamo tutta la lista degli episodi e tutti i link a prodotti affiliate o agli argomenti di cui abbiamo parlato nella puntata, e il sito è geekcookies.github.io. Pagina Facebook, come oramai hanno tutti, che nel nostro caso è Geek Cookies Cast, e anche una pagina Google Plus, che è Geek Cookies. Esaurite le pagine, c'è da ricordare anche che il podcast è principalmente reperibile su iTunes, oltre che attraverso il feed RSS, che si può trovare dal sito. E vi ricordiamo che per aiutarci un pochino, non sarebbe male, è molto molto gradito se ci lasciaste qualche recensione, qualche stellina. Su iTunes, vediamo di farlo salire un po'. Detto questo, ci sono, come dicevo, tutti i contatti personali. Il mio personale è principale, quello Twitter, il mio account è fanciullim, e il mio sito personale è www.fanciullimassimiliano.it. Questi i miei contatti. Quelli tuoi, Francesco? Io sono reperibile su Twitter a @cesco_78 e sul mio sito iltucci.com, dove pubblico recensioni di cose da mangiare, cose tecniche, di tutto un po'. Alex, ci lasci anche i tuoi, se ne hai? Ok, mi trovate su Twitter con chiocciola Alex Raccuglia, tutto attaccato, e poi ho un blog che aggiorno praticamente tutti i giorni con delle minchiate che si chiama Video Diggaz ed è su WordPress, cioè videodiggaz.wordpress.com. E lo so, non mi sono mai comprato il dominio, ma perché sono un pitocco. Se volete vedere quello che faccio invece nella vita reale, cioè quando faccio finta di essere un regista, mi trovate su alexraccuglia.net. E direi che basta così. Poi insomma, se cercate Alex Raccuglia trovate le minchiate che appunto la legge sull'oblio non riuscirà mai a far cancellare a Google, cioè cose di cui mi vergogno tantissimo. Addirittura. Sì, va bene, detto questo andiamo a concludere con i link affiliate. Ricordiamo ancora che cosa sono e per chi li usiamo. Allora, i link affiliate sono dei link a prodotti venduti da Amazon. Generalmente noi mettiamo come link prodotti di cui abbiamo parlato nell'episodio e usiamo questa tecnica, cioè usare questi link affiliate, perché una parte di ciò che spendete su Amazon arriva a noi. Voi non avete spese in più, è Amazon che si prende carico di girarci una parte a noi. Questo per noi è importante perché, come abbiamo detto, il primo obiettivo sarebbe quello di comprare un microfono migliore al sottoscritto. Per adesso penso siano soltanto state usate per comprare le licenze di PodCleaner. E di questo... Ah, ecco, sì, io mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Noi non abbiamo sponsor, nel senso non è che abbiamo invitato Alex perché Alex ci ha dato dei soldi per fargli pubblicità. Noi abbiamo invitato Alex perché secondo noi ci ha dato un prodotto interessante che abbiamo acquistato. Che io ogni volta che ci penso mi piango perché dalla felicità. Grazie ragazzi, quando passate a Milano vi offro una birra. Ok, molto volentieri. Ricopriamo i soldi Sì, esatto. No, ci tengo davvero parecchio a dire, non sono marchette queste, è proprio che se noi parliamo di qualche cosa, quando abbiamo parlato con Michelangelo della scheda You Do, è perché è un prodotto che a noi piace, io ce l'ho, l'ho comprato e lo uso con gran soddisfazione, non è che ci dicono vi diamo tot e quindi voi ci fate pubblicità, questo secondo me è importante. No, l'unica entrata che noi abbiamo sono appunto questi link affiliate, quindi nessuna pubblicità durante l'audio, prima, dopo o durante, e nessuna marchetta come puntualizzavi te. E soprattutto il link affiliate, se voi entrate su Amazon cercando la scheda del Raspberry e poi vi comprate la coperta per il letto, va benissimo, basta che entrate dal link del Raspberry, poi potete comprare tutto quello che volete. Se vi comprate la Mercedes classe E su Amazon e ve la vendono, noi siamo contentissimi, ok? Anzi, comprate. Bene, c'è rimasta soltanto da ricordare la sigla, la nostra sigla, che è appunto, come dicevi tu prima, era presa da Jamendo. È del gruppo Pornophonique e la canzone in questione è Sad Robot. Come ricorda benissimo Mario, che non c'è, l'album in cui è inclusa questa canzone è 8-bit Lagerfeuer e la canzone è rilasciata con licenza Creative Commons, quindi è possibile riutilizzarla come facciamo noi a volontà, semplicemente dandone visione, come abbiamo appena fatto. Poi avevamo anche lo sconto You Do, che volendo possiamo ricordare proprio per chiudere tutto questo. Assolutamente, non ricordo sì. Qual è il codice è valido finale. Fino a febbraio era valido, mi sembra, per un'annata, quindi sicuramente fino a febbraio prossimo, quindi è anche valido quando uscirà a settembre per la You Do mio. Esatto, e dava mi sembra un 20% secco su tutto quanto. No, dai, il 10%. 10? E l'annullamento delle spese di spedizione. Ah, quindi può darsi che a conti fatti sia anche più del 20%. Sì, sì, ed è su tutto lo store. Se qualcuno comprerà la scheda, poi si accorgerà che è interessante anche il monitor touch 7 pollici che io sto bramando. e lo sconto è anche su quello lì. Quindi tutto quello che si compra sullo shop di Udo è scontato del Ok, il 10%. codice ce lo ricordiamo perché non l'abbiamo qua. Perché io. Ah, GCookiecast. perfetto. No, no, aspetta, GCookies è tutto Perfetto, maiuscolo. sì. Vabbè, lo aggiungeremo anche poi nelle note dell'episodio perché evitiamo così almeno di sbagliare noi e gli altri. Bene, direi che abbiamo finito 2 ore esatte, dice il mio file. Perfetto, e l'abbiamo divisa in due puntate, quindi ecco. Sì, se avessimo fatto una puntata sola finivamo domani mattina. Vabbè, ringraziamo come prima cosa Alex che si è prestato a questa puntata e ci ha seguito in questa piccola avventura pazza come ogni volta. Beh, sono io che ringrazio voi e ringrazio tutti gli ascoltatori. Ci siamo divertiti davvero parecchio e soprattutto ci hai fornito un sacco di informazioni che a noi torneranno utili e spero che siano anche di stimolo per gli ascoltatori a creare magari qualche podcast nuovo. Assolutamente sì, secondo me il podcast è uno strumento eccezionale e il suo punto di forza è anche il suo punto di debolezza, che non si può fare revenue diretta. Cioè, nel senso, non è come YouTube dove praticamente se tu diventi uno che fa cazzate, dopo un po' diventi uno YouTuber famoso e fai soldi. Per fare soldi con i podcast non si riesce, per cui è ancora un oggetto nel bene e nel male puro. E in cui la gente che lo fa per veramente per spirito di condivisione. Per cui se si creano nuovi podcast, ben contento. E siamo contenti anche noi. Allora, a questo punto non ci resta che salutarvi tutti. Un saluto da Francesco da Un Torino. saluto da Massimiliano da Livorno. E ciao da Alex da Milano. Buona serata, buongiorno e alla Ciao a prossima tutti. puntata.